E allora eccoci in agenda, l'agenda del martedì autogestito. Come annunciato, iniziamo a parlare insomma della vicenda che ovviamente seguiamo da tempo, l'incredibile vicenda giudiziaria di Pinar Selek, femminista femminista turca, perseguitata letteralmente dalla giustizia turca, non solo lei ma come molti altri, anche tra i curdi armeni tra gli altri, ma insomma è una vicenda veramente assurda. L'11 giugno, cioè domani, la nona corte di Cassazione di Ankara emetterà il suo verdetto. Si tratta della stessa corte davanti alla quale gli avvocati di Pinar Selek hanno contestato già il 30 aprile di quest'anno le molte illegalità che hanno portato alla condanna di Pinar dopo, lo ricordiamo, 16 anni di battaglie giuridiche e ben 3 assoluzioni per non aver commesso il fatto. Ciò nonostante, questa Corte di Cassazione l'aveva giudicata, diciamo, colpevole. Ricordiamo che Pinar attualmente, su di lei pende una condanna all'ergastolo. È proprio perché questa Corte, la nona Corte di Cassazione, è conosciuta per le sue posizioni repressive, tra cui quelle contro curdi e armeni, con processi emblematici che hanno marchiato la Turchia, che noi attendiamo l'11 giugno con diffidenza e sfiducia. Questo è un comunicato a cura del collettivo di solidarietà con Pinar Selek in Francia, quindi lo andiamo, diciamo, a tradurre. Ed è proprio perché, di fronte alle rivendicazioni di migliaia di persone, le risposte sono di morte, ferimenti e manifestazioni vietate, noi oggi resistiamo. Proprio perché le condizioni di sicurezza di migliaia di minatori importano poco e la loro morte non importa poi così tanto, che noi continuiamo a batterci. Pinar Selek ha dovuto lasciare la Turchia e la conferma della sua condanna avrà gravi conseguenze sulla sua famiglia e su lei stessa. Sarà inoltre un chiaro messaggio per tutte le resistenti, per cui Pinar è diventata ormai un simbolo. Per Pinar Selek, ma anche per tutte coloro e tutti coloro che lottano oggi in Turchia per la giustizia e la libertà, la resistenza è ovunque. Questo era appunto il comunicato a firma del collettivo di solidarietà con Pinar Selek in Francia, che ci ricorda insomma questa data di domani è piuttosto importante per la sua vicenda. Lo ricordiamo, Pinar Selek non si trova in Turchia, è nei fatti una esule politica in altro luogo e quindi è in attesa, è molto importante per lei, diciamo, questo verdetto. Insomma, se dovesse essere confermata la condanna all'ergastolo, ovviamente insomma la sua vita, come è immaginabile, subirebbe una mutilazione importante. Insomma, Pinar è stata ospite, lo ricordiamo anche qui al martedì, nel blog del martedì trovate la sua lunga intervista divisa in due parti che abbiamo curato appunto con lei, in cui, oltre alla vicenda giudiziaria, ovviamente Pinar ci racconta delle sue battaglie, delle sue, diciamo, dei suoi studi, delle sue ricerche, tra cui una incentrata sul rapporto appunto della Turchia con i curdi, un'altra sui militari, sul servizio militare in Turchia. Per tutte queste ragioni, poiché è una pensatrice libera, Pinar è perseguitata. Peraltro, lo ricordiamo, Pinar proviene anche da una famiglia di attivisti e quindi anche il padre e i familiari a loro volta hanno subito insomma la dura repressione, carcere e torture. Quindi sin dall'infanzia Pinar è, diciamo, ai noi abbastanza abituata a questo livello di repressione. Ciò nonostante, ovviamente, attualmente Pinar è forzatamente costretta a stare lontana dal suo paese. Stiamo cercando di entrare in contatto con una compagna appunto francese con l'avvocata, scusate, ogni tanto si perdono pezzi, con l'avvocata di Pinar. Hello, do you hear me? Yes. Yes, okay, we are now in I hear you. Okay, welcome in our yes. Yes, welcome in our radio. And the first question I would like to ask you is, can you say us what is happening tomorrow? Okay, sociologist and feminist Pinar Selek is being trialed for 16 years, and she's he's accused of being a terrorist and participating in a bomb explosion in Istanbul. There is no, although there is no clue, there is no proof against her, and she has accused three times for the accusations. Last year, the court in Istanbul gave her a lifetime sentence for, and she, the court made her responsible for the bomb explosion. Yes. Her lawyers applied to the Supreme Court, and there had been a trial at the Supreme Court a month ago. Tomorrow, the Supreme Court will announce its decision on the case. There are two possibilities. If the Supreme Court approves the decision, we have really very rare chance to revoke this decision. But if the Supreme Court revokes the local court's lifetime sentence, the case will be expired by the Istanbul local court again, and it will be sent back to Istanbul High Criminal Court. Yes, I try to translate. So Pinar Selek è sotto processo da 16 anni, è accusata di aver messo una bomba in Istanbul, anche se molte prove non sono state date. E questo verdetto che sarà dato domani è successivo a un processo che ha avuto luogo un mese fa. E le possibilità, dunque, è un processo che è stato fatto davanti alla Corte Suprema, e questo processo, dunque, ci sono due possibilità: o lei è assolta o il caso sarà revocato davanti a un'altra corte. And can you say us what do you think? Do you trust that we are expecting the Supreme Court to revoke this decision, because from the start all the trial is against the law, and there were a lot of violations of law during all the trial. So we are expecting Supreme Court to revoke the local court's decision and send the case file to Istanbul High Criminal Court to be expired again. E dunque noi aspettiamo che la Corte Suprema revoca questo caso. E aspettiamo che sia revocata. Vai. Sì, che la Corte Criminale approvi la revoca. Ecco, okay. Questo. You can continue. Thank you. It's sent to the court in Istanbul. Hopefully, we think that Pinar Selek will acquit for the fourth time. So, pensiamo che domani per la Corte Suprema sarà revocata l'esecuzione. Sarà revocata per la quarta volta. Per la quarta volta. If it's not the case, what happened? Do you, is it some other possibility? If Pinar Selek acquits for the fourth time, we think that the Turkish courts will end this trial somehow, and we hope that finally there will be a final acquittal for Pinar Selek. So, la cosa che aspettiamo è che domani sarà un'uscita di successo, diciamo, per Pinar Selek. I hope also, and we are a lot to be with Pinar, as you know. And thank you very much for your solidarity. Yes, and thank you to have accepted this interview, and we trust with you. Thank you very much. You want to add something? I hope we will reach the justice in the end tomorrow. Yes, and yeah, I'm waiting for justice tomorrow. Yes, we are waiting too. And when you will, thank you so much. Yes, when we'll speak with Pinar, please say that we are with her. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you very much. Okay, bye. Bye-bye. E allora abbiamo appunto appena sentito l'avvocata di Pinar Selek. Lo ricordiamo, domani è una data importante per la sua storia giudiziaria. Sarà sottoposto nuovamente il suo caso alla Corte di Cassazione di Ankara, che emetterà il suo verdetto. L'avvocata sembrava, diciamo, abbastanza ottimista, e speriamo bene, ovviamente speriamo di potervi dare buone notizie già nei prossimi giorni, insomma.